Letture di Radio 24. In un nuovo racconto scritto per l'inserto culturale del Sole 24 Ore, il poeta friulano Pierluigi Cappello confronta due esempi opposti di iperbole: quello dell'amplificazione nella comunicazione mediatica contemporanea e quello dei bambini che all'indomani del terremoto del Friuli si inventano una loro personale Olimpiade. Alessandro Del Piero suscita simpatia, anche a me, che di calcio mastico poco. È stato capace di reggere una carriera che ha pochi riscontri nella storia del calcio italiano. Con il suo sorriso in bilico tra riservatezza e disincanto, ha sopportato gli osanna e le lapidazioni della stampa, sempre con l'aria di chi, dopo aver attraversato un deserto, si scrolli di dosso la polvere con un solo gesto, quotidiano e preciso. Epicentro di un mondo che ha fatto della dismisura e del clamore il carburante della sua stessa esistenza, lui rappresenta la misura e il sussurro. L'avvocato lo ha chiamato Pinturicchio e immediatamente i giornalisti sportivi hanno ripreso il soprannome. Hanno detto di lui «è Pinturicchio», non hanno detto «è come Pinturicchio», avvicinandolo in questo modo al celebre pittore perugino che ebbe tra i suoi garzoni Raffaello. Già così l'accostamento mi sembrerebbe ardito, ma dire che Del Piero è Pinturicchio, eliminando anche il nesso «come», che almeno un po' di distanza la produce, significa avvicinare lo sport più praticato in Italia al Rinascimento, uno dei momenti in cui l'essere umano è andato più vicino a toccare il sublime. Se uno dei più noti maestri del Rinascimento è Del Piero, e Del Piero è uno dei più celebri calciatori del momento in Italia, il calcio italiano è la palestra del Rinascimento. Questa è un'iperbole. La parola iperbole deriva dal greco iperbole e significa sollevamento, lancio verso l'alto. Serve ad amplificare la realtà, mantenendo con quest'ultima un qualche legame di somiglianza. Ma può anche essere utilizzata nella direzione opposta, per ridurre la portata e il vero di ciò che accade. Il rischio più frequente di un simile processo retorico è il ridicolo. In sostanza, l'iperbole è la cabrata di un aeroplano, anzi, di più. È il volo verticale dello shuttle diretto a forare la profondità della stratosfera. Se si descrive la sconfitta per 4-0 di una famosa squadra di calcio, come se fosse la battaglia di Cannes, si fa un'iperbole. Roma era veramente in pericolo dopo quella disastrosa disfatta. Se alla fine avesse vinto Cartagine, Roma sarebbe stata coperta da un lenzuolo di sale. Uno scrittore cerca di servirsi dell'iperbole con parsimonia. Lo fa di solito quando il silenzio si raddensa in gola davanti a qualcosa di inesprimibile. È l'ultima carta da giocare per far conquistare alla parola qualche lembo ulteriore di realtà. Viceversa, il linguaggio mediatico, televisivo e giornalistico fa un largo uso dell'iperbole, anche in senso traslato. Quando si dice un comportamento iperbolico, un atteggiamento iperbolico, rendendo così straordinario l'ordinario e ordinario lo straordinario. C'è bisogno di una forma di celebrità buona per tutti, che partecipi del divino e del quotidiano insieme, che suggerisca l'idea che anche noi, della razza di chi rimane a terra, potremmo respirare l'aria rarefatta delle cime. Così, spinti dal soffio forte delle parole, si lanciano in alto ragazzi e ragazze di 20-25 anni come fossero allegri coriandoli di carnevale, ignorando che cosa accade loro quando infilano la parabola discendente. La celebrità è un angelo di fuoco. Quando si ritrae, rischia di lasciare dietro un sentiero di cenere. Occorre una buona apertura d'ali per planare da un empireo simile senza fracassarsi al suolo. Il senso del limite si spezza come una canna di bambù. Quando dico questo, penso a Pantani. Oppure a Carnera, che è stato un mito mondiale ed è rovinato al tappeto sotto i pugni di Baer prima e di Joe Louis dopo. Nel 1977 mezzo Friuli viveva nei prefabbricati. Da circa un anno era stato arato dal terremoto. Io avevo 10 anni, ero un bambino. L'immagine che ho oggi dei bambini è l'immagine della purezza. Secondo me un bimbo è pura malvagità o pura bontà. Nella sua testa i colori dei pensieri non si sono ancora mescolati, dando luogo alle sfumature che noi conosciamo. Dopo il terremoto, nei prefabbricati, noi bambini eravamo esseri liberi, pura aria nell'aria. Credo che a nessuno di noi importasse della catastrofe familiare che i nostri genitori avevano vissuto. Il loro dolore ci restituiva libertà. Eravamo senza le briglie di un'attenzione sviata dall'urgenza. Indossavamo maglioni infeltriti che l'organizzazione umanitaria avevano rovesciato a Cataste in Friuli e avevamo le tasche piene di biglie. Gnomi delle discariche, cercavamo bottiglie da allineare come bersagli per le nostre fionde. Mi ricordo di Primo. Primo era un cecchino con la sua fionda. Anch'io alla fine mi arrangiavo bene, a forza di lividi sul pollice e sull'indice. Abitavo a Chiusaforte, un paese infilato in una gola e stretto lungo la statale e il fiume. Le montagne alte limitavano il cielo, ma liberavano l'immaginazione. Avevamo tutto il tempo per noi. Eravamo tempo. Così fu facile inventarsi una nostra personale Olimpiade. L'Olimpiade di Ceclis, il campo in cui abitavamo. Saremmo stati una dozzina, non di più. Per il salto in alto avevamo messo insieme due aste, dei chiodi che qualcuno di noi aveva rubato a suo padre. Erano stati disposti a intervalli regolari lungo le aste e servivano da sostegno all'asticella, un pezzo di canna da pesca in fibra che si piegava al centro. 50, 60, 70, 80 centimetri erano le misure. Il traguardo più ambito, un metro. Le prove di resistenza e di velocità non davano problemi. Accanto al campo si apriva una braida incolta perfetta per le nostre prestazioni atletiche. Avevamo stabilito in 3 giri di braida la durata della prova di resistenza, 2000 metri circa, e in 120 passi quella di velocità. Per il lancio del peso c'era una grossa pietra e il giavellotto era un bastone affilato dai nostri temperini. L'Olimpiade doveva durare 2 giorni. Il primo giorno le semifinali, il secondo le finali. Non c'erano premi per chi avesse vinto, soltanto la stima accordata dal branco. Tra noi c'era un bambino che stava allo sport come un paracarro sta a un centometrista. Non era particolarmente gracile, semplicemente non sapeva cosa fosse la coordinazione. Era anche un po' tardo, ma non troppo. Generoso di quella generosità pura dei semplici. Nella corsa veniva spesso battuto dalle bambine. C'è sempre un bambino battuto dalle bambine. Nel formare le squadre di calcio era sempre scelto per ultimo. Portiere, naturalmente. Il suo soprannome, Banana. È stato naturale come un lampo di giugno. Ci siamo accordati a sua insaputa per fargli vincere tutte le prove della prima giornata, così, per scherzo, dicevamo tra noi. Lo abbiamo soffiato in alto con le nostre parole, lo abbiamo gonfiato come una mongolfiera sorridente dentro il cielo della sua vittoria. La prova più difficile da fargli vincere è stata il salto in alto. 60 centimetri, credo, superati dopo 3 tentativi, con un bambino che reggeva l'asticella senza darlo a vedere. Quel giorno tutti noi siamo stati un'iperbole. Lo abbiamo reso celebre. Celebre a Ceclis. Il giorno dopo era una mattina ventosa di maggio. Ultimo nel salto in alto. Ultimo nel lancio del peso. Nella corsa di resistenza è stato doppiato. Lui piangeva sale e noi ridevamo. Quel bambino è diventato un ragazzo. A 15 anni un alcolizzato. A 21 è stato disintossicato a San Daniele. Dormiva sulle panchine delle stazioni. Il suo concetto di eccellenza consisteva nel bere un bottiglione di vino il più rapidamente possibile, sfiorando il coma etilico. Format è una voce inglese che appartiene al linguaggio dei media. Indica l'idea originale di un programma televisivo. Con l'idea vengono venduti anche la relativa ricerca di mercato e un profilo stilizzato dei caratteri e dell'aspetto dei protagonisti da lanciare. Dal format le case di produzione fabbricano e scagliano in alto le loro celebrità fino a farle scoppiare. Il cinismo è lucido, il lampo notturno di uno scorpione. La differenza che intercorre tra il cinismo di una casa di produzione televisiva e il cinismo di quei bambini del 77 è che questi ultimi sono stati un'iperbole gratuitamente, senza nessun movente concreto, con crudeltà tanto maggiore. Il senso del limite è misura e ritmo. Avete ascoltato la lettura del racconto di Pierluigi Cappello, Bambini del 77, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Dovevano diminuire, ma i detenuti sono aumentati di 63 unità in un solo mese. Il nuovo decreto svuota carceri del governo Monti, varato nel mese di febbraio su iniziativa del ministro della Giustizia, Paola Severino, non ha ancora avuto effetti nel disastrato mondo dei 206 istituti di pena italiani. Secondo i dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il DAP, tra la fine di febbraio e la fine di marzo le statistiche hanno segnato, al contrario, un incremento. da 66.632 a 66.695 detenuti. Il numero si scontra drasticamente con il livello massimo di capienza regolamentare delle prigioni italiane, che dovrebbe essere di 45.743 reclusi. Tra il 29 febbraio e il 31 marzo sono diminuiti anche i detenuti in semilibertà, calati da 901 a 879. Secondo i dati del DAP, però, i detenuti usciti dagli istituti in base alla legge svuota carceri, varata in prima battuta dal governo Berlusconi nel dicembre 2010, sono stati 5.682. Impressionano altre statistiche. I condannati definitivi sono 38.277, il 57,4%. Ciò significa che più di 4 reclusi su 10 sono ancora in attesa di sentenza. Gli stranieri sono 24.123, il 36,2% del totale, in maggioranza marocchini, romeni, tunisini e albanesi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Svuota carceri, il decreto è un flop, da Panorama del 16 aprile.